Right up by. Uscita tu dici? Sì. Ma sei uscito? Vabbè, bene bene, uscito sì. Ciao, le uscì. Magnato hai. E beh, tu magnato hai. Per le antica, ah, è umido. E per le migliatina, a butti, con due patate, lui io. È malo, no, per il ribattato. Oi, bocca di rabbu. Senti, no, per il ribattato. E beh, cioccolo. E beh, cioccolo, come stai? Cioccolo. Senti, no, per il ribattato. Bubu. Senti, no, per il ribollo. Grazie. Ehi. Ehi, e chi era quello? E beh, cos'è che stai dicendo? Si battato! E beh, Luca, lavorato là! A spara ci è andato il Cissi! E tu! Vedi ribattato a Cissi! Leoci! Ehi! E beh, cosa hai mangiato? Perché non te l'ho detto cosa c'avevo oggi? Avevo un minestrone! Ah, già è vero. A te ce ne hai mangiato due piatti a succiatura. Ehi, no, un piatto con il pane di usilo. Buono, buono. E Luca cosa ha mangiato? Luca, manicomio. Mangiato una pentola dentro l'altra. Buona retta, Di, al dente era. No, senza dente. Gianni Maria, chissà cosa ha mangiato oggi. Ah, vai ancora a buffetti e ruttenni. A faccia sole con la banda stappata. Ho mangiato riso con gli asparagi. Buoni, buoni. Mi danno a regalare i mani. Io ho preso 3, 6, 9, 12 mazzi. 5 euro. Bello bene. 12 mazzi 5 euro? No, allora 3 mazzi 5 euro, 12 euro, dai, ho dato. E mi ha dato 3, 6, 9, 12, 12 mazzetti, da. 12 mazzetti da quanti asparagi, però? Ehi, già, sono belli grossi, non so quanto ve ne so un mazzetto. Li ho messi nel pozzetto gli altri. E io che l'ho trovato un mazzo, no, due mazzo questo. Un mazzo, e già ce ne sono, una ventina. A me me ne danno 70 asparagi belli, 70, 5 euro. Non lo so quanto ce n'è in un mazzo. Boh, non l'ho già puntato. Ma è grande, mi ne ho uno qua che. Esce a venire, aspetta. È un mazzo dove ne è. A chi lascia il mazzo della cucina da mezzo. Con le uova, me lo bevi. Comunque già so belli, Fatti nella zona di Itti, quella zona lì. Luca! Aspetta un attimo, grazie, mi sto pensando che stiamo uscendo tra un po'. Eia! Leo ci e tu a Sparagi non ci sei andato. Negativo. Mari vai, me ne voglio andenni, chi ci dia andenni. La casera si ha fatto, 60 euro si ha fatto. Aveva un borsone da Sparagi. L'ha venduto la metà e si ha fatto 60 euro. E l'altro se li avrà venduti lo stesso. E lì di là si le fanno i gusti, faceva. Ciao Mare, passate e mi ha dato un po' di finocchietto, è andato a finocchietto, però me l'ha regalato. E io no, sono senza macchina, grazie, sono senza macchina, se no sarei andato. Ma è da cosa ha fatto? Si piglia un pullman e fare il pullman, poi se ne torna piano piano a piedi, tramite le campagne. E poi da spara, di chi ci cagata? Ho capito. Meglio di non dare disoccupato e si arrangia così. Quando ero tempo di la giocare con cui andare a giocare con cui. E li faccio un bel mio, e da poi si fa dire di nacchi, ce la vedi. Beh, niente, non fatti nulla grazie ai settani. Bisogna arrangiarsi nella vita, bisogna arrangiarsi, andare a tutto, fare tutti pure io. Quando mi so che fai chi si occupa per mani piotti, mi arrangio, ando a fare qualche cosa, ciocca, e su chi è? E me ne puoi non fare ne gusti, che è vita, se insomma, se già se ne fai qualche cosa se ne fai. Meglio di nuda, meglio che agitato così in carriera, e tanto non se ne arreggiala, non ne viene travaglia, né manco di là. Dunque tu fai gusti, fai bene. No, per cosa più bella sudarsi di là. Intanto non domanda nulla, né la mamma, né la mamma, invece sta imburato, come si fa se non bella amica giù, l'altro è andato con un amico giù, e si è arrivato due borsoni di asparagi, fino al cito, bietto, poi si è arrivato i mazzetti sotto al bottico. E ci l'hanno venduti subito, di chi via le butti, vicino alla donna. Veniranno a ralfarsi. Sì, sono buoni gli asparagi, mica si già fanno bene. A me piacciono bene. Con le uova, con la pasta come la faccio io, pasta e panna e pancetta e carciofi. Ma panna, carciofi, panna, asparagi e pancetta. L'altra volta mia moglie l'ha pigliata in frutta e verdura, le mazzette fini, non so quanto ha il peso. E cosa ha fatto? Due ore ha fatto. Dammi la riga a me, mi ne butti. E poi sono belli, tenari e tenari. Sì, ma questo mio amico, questo tipo che conosce, adazzato, 70 asparagi belli, ce li abbiamo fatti, un bel... Abbiamo fatto un bel piatto di pennette a testa, in più li messo da parte, ci abbiamo mangiati così. E Giandani, beh, dai, vanno bene, se vuoi qua. Di arrangiarsi nella vita, perché se la getti all'altri, io già non ho gettato a nessuno. Promesse contro promesse, se non mi arrangio, ui, faccio a pani di muscio. Ehi, se la getti di promesse, allora li ammagni. Io mi raggio sempre se cadere il travaglio. O se no andati a Roma stessa, si ha ciocca, spara, c'è chi ci vieta. Ma non venuta cosa. Su internet, guardato c'è Luca. A cosa? A cosa, grazie? C'è un sito. C'è un sito offerto lavoro. Offerte di lavoro ci sono, anche la lavapiatti, ristoranti, pizzerie. Quelle sono stagioni alla fine, dai. E dove? Su internet. Anche giardinaggio. No, lì sono sicchenni. Non so con niente, basta baita su internet. Basta scrivere offerte lavoro Sassari. E scrivi tu offerte lavoro Sassari. Ti appare la pagina e guardi. Va buona. E se vuoi che io chiudo adesso, per il momento che devo uscire, so se fa tardi. Che devo andare pure... Dove posso trovare le figlie delle cintole? Sono la cintola che mi dispiace buttarla perché è in pelle, è nuova, mi si è rotta la fibbia. Dove posso andare? Penso dal calzolaio, prova quel calzolaio che c'è all'Eurospin, a Predanetta, vicino all'Eurospin, o se no prova da Riginisi. Vabbù, più tardi allora, dai. È anche di marca, vabbù, ciao. Prova quel calzolaio che c'è lì nel piazzale dell'Eurospin, a Predanetta. C'è un calzolaio, forse che innaggia niente, vicino al bar. Già lo stato. Vabbè dai, ci sentiamo, ciao, grazie. Quando senta Ciccio Bello salutamelo, hai capito? Appena lo sento quel porco, sono un paio di giorni che non lo sento, pompugna. chissà cosa tutto è combinendi. Vabbè, dai, sto chiudendo, ciao. Ehi, ciao. Ok, ciao Luca, buona passeggiata, non te ne andare in giro. Ludando! No, vabbè, devo fare delle commissioni, dai, ciao, grazie. Ehi, vabbè, a più tardi, ciao. Stai uscendo male, Antonio. La coppa la ruota. Tatiano. Dimmi tu, ciao. A mi senti. E lo vedi. Ehi, io. Che scivato di sì? Adesso colore è scivato. Era Leoncino, assurda. Luca è uscito. Era un bosco e non l'ha divertito. Adesso ho sentito la voce di Tore e non se ne intendo più. Oh, come chiamare che sono a Tore? L'ho chiamato e non ha risposto. Caspita che sono in macchina, c'ho l'antennino fuori, piccolino. Scatta, qua arrivi bene. Secondo dove sei, a Graziano non arrivi. Ah, che Graziano, è sempre con chi su Bortattelino, minoredo, gappa, e fuzza, no, non mi intendi. Ci senti a letto, già. Ma io non sento a lui, la voce di gioia non mi piace oggi. A San Giovanni, ai campi di San Giovanni sono. Ma giomai non arrivi in occhi. Ma ascolti, Giomari. A fondo scala. Cazzo, sono con un antennino sopra la macchina, piccolino. 10 centimetri è lungo. Arrivi. A voglia. Perché la cosa è messo, la calavita, come cavo si chiama? C'è la calavita, ma è un giocattolo il tantellino, Vedi, certo, qua arrivi bene, così che è tranquillo. Adesso arrivi bene anche a Graziano, per cui anche se piccolo va bene. Sì, mezzo ancora è meglio invece a Graziano, lo sento. Faccio che lui ti ha detto l'armadio nastro, capito? Per non attaccare la terra esterna, capito? Se l'ha nascosto dentro l'armadio. Ma non so se l'ha pigliato a fa. Adesso l'ha attacco, l'ha spesa. Meno male, perché si è deciso, metto, a piazzare l'altro con l'antenna esterna. Così almeno mi ascolta bene, mi ascolta. Però dice che già ti sentiva ugualmente, adesso stavo dicendo. Ma aspettiamo allora che metta l'altro con l'antenna esterna. Era ora, che ci distiria. E cosa sta combinando lì a San Giovanni? Ha accompagnato mia figlia e mia nipote. Angelo si chiamava. Insomma, Tassinaro sei passato allora là. Dopo la macchina è fasciata, quindi devo essere io questa settimana e forse la prossima settimana pure. Allora il meccanico è malato. Si sente male, ancora non lavora. No, deve aggiustare un pezzo, lo deve dare a quest'altro per aggiustarlo. Così è la questione. Ecco perché. Vabbè, accetta Sinaro, così che è tranquillo, sono tranquilli loro, là. Sì, ma non assai, però, no. Ma che ci rimetto io così. Ma allora non lo fanno un sacrificio come fai tu, stai tranquillo. Lo so che non lo fanno, lo so vendi io, paghi su. È così, loro purtroppo hanno altri impegni più importanti dei tuoi. tu non hai impegni importanti, allora dico devi fare quello. Ma rendo già lo sai, ma ti so qui. Arrivo a un certo punto a voi e dico, oh basta, non ve la posso più, arrangiati. Non ci arrivi a dire una cosa del genere, stai tranquillo. Già ti conosciamo, dai. Allora non mi conosci bene a me, nostro marito. Vedo un po' tu allora, là. Ok. Vediamo un po' se ha messo tutto quello lì. Bello bene. Non più, devi dejar ancora, a casa. Perché ha perso la chiave, non si ricorda la chiave per aprire l'armadio a toglierli. E allora? È sicuro! Andiamo, via, andiamo. La chiave ha perso, tu la sta cercando. Non si ricorda più dove l'ha messa. Senta che andiamo, via, andiamo con Fizzo. Ma mi senti, bella be? Ah, stava sì che ti posso intendere. Vedi, cazzo, mira la cosa non radrati. Ma insomma, ma come ti devo pigliare io a te? Sì, perché mi sto guardando la TV della bomba di Hiroshima e di Nagasaki. Chi non sa di una foto ti dice che non è roba nostra? Cazzo. Sì, ma ci sono i paesaggi che sono belli. Adesso sono belli, non prima. Sì, il Giappone sta facendo vedere i bunker che ci avevano nascosti, se li lampavano altre bombe atomiche, gli americani. Un bel bunker baviani. 2 metri di muro di calcestruzzo, sia sopra che ai fianchi. Infatti la bomba atomica lì non gli ha fatto niente. Sì, ma sono rimasti dentro anni e anni, fino a che non si buria tutto canto. Sì, ha fatto vedere l'esplosione della bomba a Hiroshima. Capita! Un nuvolone, un cerchio di nuvolone, sai come ci ha mangiato tutte le città, le radiazioni, l'onda, la gente l'ha polverizzata, pensare che bisogno ha polverizzato. Sì, anche l'America non sappia cosa cazzo fa, ve l'abbiamo fatti a Eddie, ve l'abbiamo fatti, avete visto, che se ne ha negati l'americano pure. Vede che avevano cominciato i giapponesi, li avevano attaccati a sorpresa l'America, nonostante erano alleati. Ma hanno toccato il cane che dorme, ed erano alleati con gli americani, e loro gli hanno fatto l'agguato. Hanno bombardato tutti i porti, gli aeroporti. È logico, l'America la bui. Ha detto, beh, avanti non posso vedere io. E le ha regalati 2 confetti. Ma non si combatte così, la compresa. Non si combatte così. Lo so, ma non si combatte neanche così come hanno fatto i giapponesi. Cazzo, se le ha dei bigliari confidata. E hanno visto un bel niente quando vedi hanno fatto l'attacco a tutte le basi militari, anche a qualche cittadella. Lo so, ma non era giusto buttare una bomba e distruggere tutto quanto. No, se no ha distrutto sono in civi, no. Ha distrutto gli altri luoghi, pure. Dovevi vedere la reazione della bomba, la prima bomba che avevamo buttato. Un cerchio, sai come camminava. Manu si allagava, spolverizzava canto vela, non per rimanere a nuda. Per raggio di chilometri e chilometri e chilometri. Poca gente si è salvata di quelli, nonostante che erano nel bunker, perché poi anche una volta sono fuoriusciti, c'erano sempre nell'aria le radiazioni. 200 chilometri quadrati quella bomba ha distrutto tutto, 200 chilometri quadrati. Un bel l'ha fatto vedere, mia in Giappone questo qua, che sta facendo vedere i bunker, gli stanno facendo vedere dove si nascondevano, e le città, caspita, perché sono in avanguardia in Giappone, salve da rete uguali, pare i fulmicuri. Ci avvenisco che ti ha sentato i missili, avà. Ah, va fino all'astro, chi si piace i missili come si chiama i animali? E chi su bocco d'India, lo coreano dal nord. Ehi, a che ti credi che i giapponesi e gli americani non viaggiano che ci bombe? A paradella di chi cassa, pure un vicio, li va se ne va la matessa e vini, che abbiamo fatto il Giappone e l'America. A chi ci ciccio bello? No, ne fatti adesso perché si sono civilizzati, prima erano animali. Avasso tutti i suoi. Non vi ridesse una mazzalla che sei imbecille, che sei tutto macco, Che vuoi, comanda Edo, ma che sei fanno missile a tutta andà. E le bei fanno pure le brughe, a vedere il raggio d'azione, capito? Hai visto i signori? Ah, come a fare la regalina a distruggere chi si sa sopra, cosa dici? Ah, che chi se non vorrei dire, ne ammazzarlo. Sono in secca ad ammazzarlo, ma non vorrei dire. Chi se non ha fatto mussare un gabbo allo zio, a chi l'ha disobbedita a un ordine? Ad alanza a tutti, ne ha mussato un gabbo, una cimitarra. Ehi, lì c'è un esercito che fa, e tutti precisi lì, e tutti in linea lì, 9-1 fuori di la linea. Sì, fuori di la linea ti vado a massa subito, sei macco, quello è malato di cervello. E chi si è malato può ammazzare tutti. Ehi, avrà bisogno di riesci in ammazzarlo, ma solo chiedo se è visto, vai dottore. Capitano, che qualcuno va a sedere, lo va a sicura, prima o poi. Porcello d'India, capita, c'è gli assaggiatori, mi. Prima non mangiami, prima lo faccio mangiare all'altro, da poi mangia Edu, hai compreso? Chi sono furbo, un bel furbo. Furbo d'India, pare, quando mai non vuoi un pacco, dici che c'è bella. E lo faccio secco, boh! Grazie, hai vinto la campagna, chi sa mangiare il bocchito! Avevano dato in mano a me, l'aveva arrossito, uno spiedo, li stava zaccato, e lui li muore in bocca, bare un pochito, bari! Ah, vedi, tu bianchi lo giocata, eh? Vedi, lo travagli l'ammazza, un poco, Che cristiano veo! Io metto il buon evento tutti i canti, bravissimo! A chi si vede che cosa è in Olanda ti va si va subito fuori, non hai compreso? Sei macco! Io mi vieni qua a massare Lucia che ha disubbidito all'ordine! Per carità! E Betto, com'è la giornata lì? Adesso che ho fatto a soli io. Adesso che ho fatto a soli, bugiato per entrare a macchina. Ah, prendilo per me? Prendi in macchina, no? Ora abbiamo un po' caretto di carietta. Ah? Bene. Dai, grazie. Ma ti vado l'antenna che tu fa vedere i Vittore. Cos'è? Sentito mi hai. No, non t'ho capito. Cos'è l'antenna? L'antenna mia, l'antenna tua, abbatta a Givi, che tu fa vedere io. Un bel forte ti arrivo. In fondo scala mi arrivo. Dai, Pirina, la saluto. Ehi, e chi era? Tu con mio sto uscendo, mi bello bene. No, io ho un antennino piccolino sulla macchina. Di 10 centimetri. Pensa un po'. Già l'avevo vista su internet, cosa fare con la base magnetica, piccolina. Sì, con la base magnetica, però camminando non prende, solo quando sei fermo prende. Sì, perché è corta, ma se la poni lunga, la base magnetica già figlia. Sì, certo, bisogna costruirla, cosa c'è su internet, costa 30 euro, te la usi e c'è lo stile lungo e funziona bene anche camminando. Ma non me ne ha fatto nulla, tanto in macchina la arrivo un po' che nulla la arrivo. A meno che non mi devo fermare. Vabbè, se ti fermi, non so, qualche volta che andi a mare, così o ti vai un giro, boh, un picchinicchi. Ma non me ne ha fatto nulla, da si è attaccata a Rondoglio. Preferisco andare a passeggiare, che era amico. Vabbè, ma se uno è tracco, magari ti posi in macchina, ha passato un po', ti fai una chiacchierata se senti qualcuno. Vabbè, la fa bene così, la carta, la voglia, con questo antennino di supporto. Ehi, mangio Mari, mangiando stai? No, focacci, mi sono mangiato una banana. Adesso sono seduto. E cosa vuoi fare? Io il pomeriggio non ne mangio frutta. E portarci la mangio. Dopo anche tu non ne mangio, mi interessano. Io mi ho mangiato due caramelle, due noci, poco fa. E una merendina, il caffè. Ah, intendi tu? Però la banana non la mangia, ce la succhia solo. Siete abituati così, invece io so che chi, la frutta la dovete mangiare a pomeriggio e a pranzo non dovete manco toccare di frutta, hai compreso? Il pomeriggio la frutta la dovete mangiare solo. Mi immagino che un caschetto di banane, viene pure una... un poco costa, c'è anche il mango che l'ha pigliato mia figliola, ma non mi piace. Ma si tratta male, no, Rubettino, Giovanni? A chi è diabetico? E c'è gli aranci, quelli sanguigni, vino un cestino e vivi, mandarini, mele verdi, il melone frigorifero, poi non è il suo melone, poi davvero, il melone d'inverno. Andi, dai, dovresti mangiare solo di pomeriggio la frutta, grazie. Prova a mollarla a pranzo e a cena, vedi. No, il pomeriggio non l'ho mai mangiato, dopo a pranzo, quando ho finito... a mezzodì che mangio il primo e il secondo, poi mi mangio la frutta e la notte dopo cena se ne aggiungo la mangio, però non spesso, ogni tanto la notte, se no la sera così non ne mangio frutta. E invece non te l'hanno data la dieta per fare il coso come si dice? A me mi ha fatto rivolto che non mi ha inteso di mangiare la frutta a pranzo e a cena. Aspetta, solo il pomeriggio la deve mangiare. Già me l'aveva detto anche a me, e io gli dico che non sto mangiando, non è che non abbia molta voglia di mangiare frutta, io gli dico così, e me la mangio quando mi piace. Certo, Gian Maria, ne vai un fascio, gli dico. Marco, chi se ne comprende una, ragazziano? Cosa ne può di altro? Ne può di solo, e mai che ci fai piante, da semano, è vaccinato. E allora, dai, andiamo. A me mi ha fatto le voci, pensavo un po' con i produttori. E se continuavo così era peggio, mi diceva, beh, facci lì direttamente. Quando lo portano via, allora vede che è cambiato. E tu le ridi e prima portarli via e lo proseguirò più tardi. Sì, a me magari te allora facci lì, se sta andando bene secondo lì, facci così come sta dicendo lì, faccio così sì. E non va di tu, non si va a trivia, sta andando a E io dico, il cusuglione c'ha parata, c'è il cusuglione da cuore. A chi capi, a Mabuzzi. Vengo io a pigliare Sabuzzi, beh, anda. Allora, l'altro che va via è un diabetologo, chi se non era tutti a nuda proprio, si vedeva a 30 km di distanza. Quando arrivi mi diceva, beh, tutto a posto. E noi, quello che è a posto è a posto, quello che non è a posto è sempre la stessa cosa. Ah, e beh, certo che sì. Va bene, le analisi già vanno bene. Ci vediamo fra 6 mesi, ok, arrivederci. Ecco la visita. Bravo, chi so è? Mascio femmina ira. Mascio? Da roba, tranquillo me. Tom. Allora. Non ha puttana grazia, figuriamo già chi tu. Mi pare che l'auto dottore dei peli si chiamava. Si già, si chiama, porto d'orra, Era troppo salito questo. Aveva la gara, sempre il tracco era. Perché è nato stanco, capito? Si sa, invece mi manda le email a casa, in un telefonino. A vedere, si vanno la di la visita, vuoi sapere si vanno, così è domani che viene a Sassale. A che punto visto la sala più d'orra? Che se no c'è di biglia la Romadia, di biglia per da Sassa, hai capito? Se vuoi c'hai in casa, gira gira. Mi manda l'email sul telefonino. A vedere si va, chi va giù la visita, a vedere si va o non vanno. E io devo rispondere tutti i che mi manda l'email. Compreso. Bravo bravo avanti tu. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Purtroppo è così. Andate, grazie. Ma... le dico già lo so, che ando, tanto quando ando, posso che su che piace a me, intanto, paghi su che ti dici, ma, la che mi appigli. Dici, non vedi l'ora che arrivi ogni 27 a fine mese, a piccasse di denaro, hai compreso? Sono tutti così. Un attimo, dottor, riprendi tu che rientro subito. Sì, lascia un quaglio. Perché, insomma, grazie, noi ci siamo i due, no. A me mi ha detto cosa, se vuol fare come vuole lui, faccia quello che vuole lui. Se gli sta bene così... ma c'è poi sempre quella, era sempre quella che mi ha sempre data, allora ho cambiato metodo. E quindi la puttana non la prendo. Ma so che l'ho da farmi chi da visita, al collo, per le vene, eccetera, eccetera. Uno che mi l'ha dato da me bara a settembre, a ottobre. E l'ultima volta che l'ho fatta, sono entrato e uscito, gli ho già fatto, tutto a posto. Grazie. Purtroppo io ho dovuto cambiare metodo, anche se no a me non era di fastidio a farmi tappare sempre con la glicemia alta. Ma vai, ho subito un'altra cosa, come che non devo passare le analisi, come se tenere la pasta. E cosa fai? Non mangi. No, quando mangi il pollo, l'indomani mattina ce l'hai in città, ce l'hai. Ma io sono quella di prima, la sera prima, mi mangio il pollo e buh, e mangio normale. Ma l'indomani mattina ce l'ho normale. Guarda che io stamattina ce l'avevo a 119 e non era alta. Ieri notte ce l'avevo 146. Prima di cenare e stamattina 119 e dunque quasi giusta. 146 non è giusta, 119 può andare, ma 146 no, vuol dire che hai mangiato roba troppo dolce e ti è rimasto fino alla sera, ti è rimasto così per la notte. No, a chi dritto di notte mi ha mangiato due caramelli, una alla menta a chi lo si dice non mi ha messo secca la cacciura, allora mi pongo dei caramelli con un gommodino. Se mi vedi che mi niscetto, me la bile e me la succio e me la poi mi si trovo. E se no non mi viene che non mi sveglio, no, non me ne mangio. Però in genere, perlomeno su 5 giorni, un 3 volte mi sveglio, con la gola secca, è l'ossigeno che me lo fa. Lo so, grazie, però dovresti mangiare di quelle senza zucchero, dovresti mangiare, quelle le caramelle senza zucchero. Vabbè, me la dici, cioè, quando c'è la bocca secca si mangia delle caramelle senza zucchero. E vedrà che non gli sale la glicemia. Sono senza zucchero, dici, però sempre il dolcificante in mezzo ce l'hanno. Per dire, prendevo le pastigliette e mi dicevo, le pastigliette non le devi prendere perché c'hanno non so cosa. E allora cosa mi devo pigliare? Ti devi prendere lo zucchero di canna. E c'ho lo zucchero di canna ed è dolce come a te, sì. No, a me mi ha fatto pigliare un dolcificante, una scrittura dove dice, e quella non me la sale mai la glicemia, questo dolcificante qua. E ma che tu hai, dimmi qual è? Certo, guarda che quello lì è quello che mi aveva scritto l'altro diabetologo, e lui compra anche in farmacia, non è che lo compra al supermercato. Oh, perché ci sono anche al supermercato, ma non è compro al supermercato. Li prendo vicino a casa in farmacia, me ne vanno bene lo stesso. E allora devi comprarti lo zucchero di canna, mi piglio lo zucchero di canna. E c'è anche lo zucchero di canna adesso, è una di... No, a me mi ha detto mio fratello nemmeno il zucchero di canna, perché è un bel calorico che ti fa salire lo stesso la glicemia, te la fa salire. A me mi ha fatto mal vestito questo dolcificante dove c'è una scrittura blu, e lo trovo alla Conad io quello lì. Ognuno si dice la sua, chi ti dice di questa maniera, chi d'altro ti dice di questa maniera. La diabetologa che va, la zia di mia moglie che è no, che è tutta un'altra maniera. Ui, per carità, carico prende è buono, ma qua è Gerusani. No, io quando prendo il dolcificante, poi do di un'ora e mezza che mi sono fatto tutto quanto, me la misuro, oppure ce l'ho normale. Sono tutti un faccio, è tipo Guido, no, non deve mangiare né verdure cotte, né bietole, né come si chiama? Chi se di braccia di ferro, gli spinaci, i dottori, e a ripidare i milaziani, spinaci, bietole, e la gente, scusi, ma il mio medico mi ha detto non è messo mai niente, così, allora lei ha informarsi bene al suo medico, allora io quando sono tornato da dottore, la gente, scusi, lei mi ha detto non mangiamo, come mai all'ospedale? Me lo dà per la mangiare, glielo ha anche detto che lì mi ha detto che no, non le devo mangiare, e a cosa mi hanno risposto, a informarsi bene, e così, allora, e così mi hanno detto, insomma, ma mi devo mangiare o non riposo mangiare? Grazie, a me, l'ho domandato al medico che ho io, ma se mangiare qua tutto il tipo di verdura che volevo, non c'entra nulla quello, ma di mangiarla tutta la verdura che voglio, come ha detto, basta che sia verdura cotta o cruda, ho preso qualsiasi tipo, puoi mangiarla. Già me li mangio rumate, se non me ne ha fruttato, me ne ha fruttato le pietre, mi posso pure brettati, gli spinaci me li compro e me li posso e me li mangio, me ne ha fruttato. Va, io mi ricordo mamma era diabetica come me, a buffi se ne mangiava di bietole che portavamo la campagna, 2 frittate vazia, ogni mangiata, eppure mamma era diabetica come me. Oh, grazie. Sì. Ma sai che ci dovessi apposta di lì se poi morì subito, capito? Tu mai ha colto due affettidini, ci la retta è di morì subito di lì di questi cosi. E allora, mi la putta sai, la salute mi ha fatto bizzarro. Che tra 30 inizio a cambiare dimagrito, perché non lo so che il mio peso è sempre quello. No, se aumento 2-3 kg, massimo 4, però poi torno sempre a quel peso lì, eppure mangio sempre la stessa cosa. Ma. Io, grazie, delle bietole, delle cose, come si chiama, gli asparagi. Quelli coltivati mangio, quelli altri no, non li posso mangiare, anche mi vagino lungoso, mi vagino. Usi più dove go, però mi fanno male. Allora, mi lascio pigliare dalle mani, intendi se stanno ti mi posso lasciare abbrezzata. Adesso hanno rimasto solo i più sani, i più buoni, quelli che trovi selvatici. Di quelli coltivati, non ho capito, quelli coltivati sono fatti a base di concimi trattati, quello selvatico è più sano e più buono. Eppure quelli lì mi fanno male, quelli selvatici, mi hanno fatto rollo lungoso e all'inizio è stato o anche da che non puoi andare in gusto. Che su problema gli hanno virato, io mi posso mangiare una caccia di limone che ti stringini, a me non mi faccio nulla, e tu sempre in bagno per via del disturbo, che c'ho del morbo di Crohn. Dunque, a base da vedi, no, ma ne fa problemi per quello, in bagno entro lo stesso, purtroppo. Vabbè, grazie, ma a me no. A me nel terreno in gabinetto non manda, quindi mangio quegli altri e non mi fanno nulla, non mi fanno. Ma sei acidi miso, acido solforico, ciao Mari, fa un gareggio a tutto, li sciogli di buco. Così è. Nitroglicerina, come ti va la cosa, la polverizza, la fonde. Emmo, dai così grazia, per carità. Tutta qui, fate graziano, Gio Mari. Ma che ti fosse un piccato, la bella regalo museo. Mi la vedo graziano, cosa vuoi fare? Accontentiamolo, vai. Un adunno, vai a mano, mi una lenza grossa. Capita, canta e mera, che c'è un dunno. Ma sono preso un turno già a dentro un bicchino. Ma chi era che è il programma della pesca al numero 59? Cosa sta ogni turno qua? L'ha pigliato in braccio in due bassoni, ce l'ha tutto 30 la stiva. Adesso andando nel deserto e ci ha vedere. Ma sono preso già Mari. Un turno già a dentro, Ehi, cosa so ben denti, Quanti si chiama? Babba Russo. So che ben denti, mi sono visto di... Tutti i chiamami denti, insomma, e poi c'è tutti i chiamami d'usa. Prego! Tutti come te Graziano, so. Ci sono tutti come te Graziano. E infatti, mi si rassomigliano, forse sono in parentela che c'è essi, e poi c'è la Medusi, per carità. E allora, una dice la Medusi e l'altra. Cate qua, prima mangi le bici e trombali in pari, da poi si riesce a fare una con l'altra. Troppa gente di spettacolo e c'è un'altra vita di noi, dai. C'hanno un'altra vita per cui fanno quello che vogliono, i soldi ci sono e se ne fregano. Sì, così. Gio Mari, Io adesso ti devo lasciare perché mi devo sto mettendo. Ehi, d'accordo, va bene, vai. C'è il telefono, Gianmari! Ehi, io so chi l'ascolto, dai, quando volete chiamate. Però beh, poco giù! Nessuno! Però beh! Cos'è che c'hai brontolato? Ma se più sbrontoletti si! Ma curame, curame! Boh! A chi sono paccurenti, allora, anzi, a bello la di mugni! Ma sono tutti mugnenti! Ehi! Io già mi so come venne un bitter aperitivo rosso! Fai bene! Fai bene! Bello, fresco! E chi si fa sicuramente la mano di Dio? È analcolico, Eia! Viguria! No, è attaccato, forse c'è della batteria scarica, boh! Ma dici se la sentendi, non sentesi più! E avrà accompagnato un nipote, che va a cercare un pallone. A chi unirei dove un campetto da calcio? Ah, così è. Beh, a Santo Giovanni, non vedo un campo di calcio, appena passo il passaggio all'inferno. Boh, non mi lamento. Si vede. Non mi lamento. Prima già mi lamento io, c'è il campo sportivo dei Salesiani. Ah. Boh, non lo so. No, sei Santo Giovanni, tu San Giorgio, no? Chi sa di qua Giuseppe e San Giorgio? Ma è un altro che a San Giovanni si vede che fa un altro campo sportivo. C'è quello di San Giorgio, però più avanti ce n'è un altro di campetto. Ma è già di secondo, catta, vicino alla chiesa San Giovanni mi sembra che sia una quella zona lì. C'è la chiesa lì vicino e c'è un campo. Giri, passi i binari, giri a destra e vai in fondo, via davanti un bel c'è la chiesa, però prima della chiesa c'è un campo. Già lo so. Ehi, certamente era in quella zona, però arrivava bene. Anche con quell'antenino arrivava bene. A voi gli arriviamo. Qual hai messo tu? La tena serra? Adesso sì. Va più bene. È migliore. Ma che l'apparecchio è migliore. Già lo grido. Cara che sei tutto azzurro? Eia. Hai pensato a costare bocca là? Certo. 70 euro che tu hai visto oggi. No, non ne ho guardato, sono un po' senza guardare. Avevano ambasciato un bel librici, ma non sono di chi sino un altro. Infatti. Perché non c'è commercio, capito? Allora abbassati e si rimagna lì chi sia chi e non ribiglia più che ribiglia più la gente non è comparenne paghi se avranno abbassato pure ancora magari abbassati sai e se no non riesce a cavare non riesce a cattirare le laterisme vedi che altri gli squali pesi ma a fare la regga già l'ha abbassato va poi da sicuro che abbassali però le baracchini sono sempre rimasti si brici quando vedi che no ne vendi ne lo vedi come ti abbassano i brici a maniera che l'abbassano si vuole far pura un po' così che ci reghe, radio. E tanto, no, non so se ne più, quelli ultimi che sono usciti, digitali, però la gente non è più come te prima a me. Infatti. Che prima costava 180 e rotti chi su chi piazza a te. Cazzo, vai, prima che 164, rimane la giuvizia. 164 o 174, una cosa del genere. Ti puoi immaginare canta la cattedra la giubilata, 215 la giubilata di. Ma la parafide abbassano ancora le briche, che la gente non ne compra più baracchini, a meno che qualcuno di chi ci sono appassionati, se no, la gente non sa che biglia baracchini. Se si può avere una cosa migliore, è chiaro che qualcuno è sempre appassionato. Io no. Ormai non più di niente, già mi basta che ci sono tre equipaggi, a Puglia. Sono troppa roba e mi pare tocca regalarla, che tanto a vendere non la vendi. Tocca regalarla. Non invita, ne viene una gelata un'altra volta, ho guardato. Su eBay è pieno, a seconda mano, per carità. E anche nei negozi, se guardi, ci sono un sacco di sconti. Però vedrai che abbassano ancora le prese, che la gente non ne piglia più. Non è più come prima, con queste leggi che hanno in borso vari patenti, ci cucino, ci cucino, vecchio che non si può permettere, e non in base ci cucino, invece va l'autista e fanno i romaniali, badi. Capito? Anche da bere, paga sempre di là, filchione di là, ma è uno che cosa travaglia fa, fa pagare tassi, fa bene, la B o la C e deve pagare, non ti è mai sacrificato, ma pigliatina e paga. Ah, che vedi, sono troppo autisti, e travaglio, lo finè. Ce l'ho visto più aziende di autotrasporti. Capito? Qualcuno che fa è arrivato ancora da due o tre catta e non i monibiliastri e operai a che cosa più l'assicurazione che lo stipendio e quando lo vendiranno per tanto è chiaro che è costretto a licenziarli o a tancare, andare in fallimento come tutte le cose avviro perché l'elettronica e tante altre cose hanno superato tutti gli ostacoli e per cui manovalanza non esiste perché sono tutti macchinari e per cui la questione è anche seria. Già viene poco, chi su poco che vè, che sono a forza di macchinari e per cui non... Ecco, ma è tutto, ma in tutti i settori, capito? Non il settore elettronica solo, in tutti i settori, così che siamo andati nei peggiorenti, così che gente la si lunghi, catta, e sono tutti morendo di fame. La gente va che sono sempre vintenni robot, così è robot, là. Chi la disoccupazione aumenta ancora. Non la vince le fabbriche, le macchine, è tutta a base di computer e robot, fanno le macchine, per carità, è su tutte le cose. E allora, avanzo cambiare le macchine elettriche, sono cambiare, caspita, è tutto un altro settore. Ma magari io catta sono un bel di frabbi che sono tanchetti, un bel così che no, non c'è lavoro per cui No, no, no, mica poco io ti disoccupato. Solo per gli altri che scioperi, qui si sì, scioperi, chi dà fabbriche che lo che vuole licenziare, pa che lo per la fase di astra danzi. E per cui li dirà, oia, cavirassi i zeli e tira a campare. Cosa vuoi fare? Ehi! Un casino ne sta uscendo, vedrai cosa succede. Curi travagli, sono sempre a vai, vedi questa macchina elettrica che funziona laggiù in America, che ha messo una femmina in bicicletta, vai, tu non ti vedi di queste macchine, no, non ha frenato, e ha cazzicato da chi sta in bicicletta, ed è morta. Ehi, a chi so, belle cose, sono ancora gli esperimenti, capito? Certe volte magari sembra che vada bene e invece magari c'è qualche altra cosa da ritoccare e beh riesco a tutto, riesco a tutto perché l'hai visto? Parcheggia la azzurra, le macchine, cammina la azzurra, l'ho vista quella macchina che andrà da sola allora. Cioè, beh, adesso scende la Hyundai, la uscita che la Hyundai è elettrico, è una bella macchina, vai a secca dove il rifornitore dei limoni e dei rigiambare tutto quanto, sia quella benzina, gasolio è elettrico, è l'attacco elettrico, arriva un rifornitore che dica elettrico, poi la becciò una latta, ti fila e ti carica già la batteria subito. Hai visto? E la benzina cosa ne fate? Ne si lavizzi la niente. E chi mi non perde un sacco di travagli, i fabbrichi, i petrolieri e tutta questa roba non rimane tutta ferma. Ma che suo personale cosa fate? Ah, ma vi pensi un agito di niente, travagliatori che hanno travagliato una vita, con queste invenzioni cosa fate ne chissi? Passa a massa, mi... ma il progresso è quello lì, si cerca sempre di produrre più che possibile e tu meno fatica con questi robot eccetera. Guarda, prima faceva tutto a mano, invece tu osserva la Fiat o la fabbrica di automobili, vai bici, i computer, tutto computerizzato, chi non fa di lasca toccare il motore e basta, no, però tocca il motore, la macchina va tutto quanto, boh, e cosa vuoi? Hanno appigliato bene il travaglio, la città dietro, boh, da un grido. Cosa fate a fare niente? Cosa fate? Con questi robot, boh, roba la macchina, cosa andano a pura? A che alla fine poi andano a pura? A far male. Avrai inventato che cosa per andare a furare? Avrai inventato che cosa hanno furato? Solo ammazzare, hai visto? Ma ciao, che stai parlando? Stai io, ammazzare niente, anche pure di banco. A parte che ci hanno sposato una banchina, non so che fai dentro, un telefonino. Ah, si è posata la macchina nella parata, la mazza, una femmina mi messa in cavenne, la mondanda. Ecco, la mondanda se la posta in borsetta, mi si è posata in coda della banchina, ecco, vai a prendere i cosi sui, vai tu. Vai, si dai, non la vedi nessuno, va, se muri, se ne pesa, si nanda. Non la pipì. Su internet l'ho visto, l'ho visto adesso. Ho vengo preso, la pipì era vera, cosa la fede? Da poco ha fatto, si è posto una mondanda e la borsetta. Si è posta in coda alla panchina, ha fatto che ci deve fare, fusata, si è pulita. Se ne è pisata e se ne è andata. E tu la vai dentro? Beh, non si può girare la faccia per sabbaizzarla. Se per un video è nato un telefonino su internet. Allora sai che non le puoi guardare queste cose? Però io ti bacchetti da fianco. A te ne immaginerei, a filare un coraggio. Oh, allora mi sarai niente. Ehi, si è posata la banchina di un bus, di un tram. Te metti giù tu, a che cusso grazia? Ma io sono era un cusso, capita, 3 chili ne ha fatto, a pezzi. Esattamente, era un mese che stava, e il suo mese sta la facendo la gana, e ha fatto tutto per il suo. Allora se la andiamo a fare mutati, la bobina parecchia con tutti, in un tra... È indifferente, dai, arrivi da se pusa dalla banchina, se pusa da un bordo, si abbassa si navigato una montagna da busata, era un bordo, se il tirato appena fuori della banchina, ha fatto, se pulita, se la pisata se n'è andata. Non lo so, quello, E grazie alla baidenti, sto. E grazie a Baida, ma tu ti rimani, quando è di un'offerta in frequenza, è a Baida che si cosi. Un uomo umano, e la bassa comprita un umano come il talento, un gatta, in te cilente come te, a Baida che si cosi, tu, boh, cosa li devo dire? Ogni tanto si rincrociano i rocci, si rincrociano, e pagisci, che ti sente cosa. Non paria la vista a me, è una bella femmina, elegante, tutta bella minigonna, è compreso. Bubu, che se la immaginava una cosa del genere? Dai, dai, non lo so io, bubu. Va avanti, che coraggio. Ma vi pensi, Gio Maria, che tu dipu? Vado a supportare un russo, gatta. Chissà sempre bene che si cose. Ah, ma i russi faccio a bandare lì, grazie a che meglio di a bandare in televisione. Meglio virtuale. Sì, è su internet, nel telefonino, bello, queste cose tu non le devi bandare. Devo abbandonare Rosi su una bassa. Dove è così tu? Chi so che ti chiedo, bubu. E poi? La fai bugia... Entri in camera. La fai bugia... Ma chi so fai il sastro? Ma la vedi in persona. No, no, in un telefonino. Non dico io, è perché c'era una persona, Gio Maria, che stava... si stava chiamando, avanti! Mi ascolti? Aio? Mi ascolti, buonasera. Sì che l'ascolto, signor Battisio, buonasera anche a lei. Mica c'è Graziano, ha detto che sta guardando questa cosa in internet di una signora, boh. Digli qualche cosa tu. Buonasera a tutti. Ok, buonasera anche a quel signore che è entrato adesso. Graziano, però stai guardando le donnine pornografiche. Stavo girando internet e ho visto questa bella donzella seduta nella banchina. Si è seduta, si è sfilacciato le mutandine e ha fatto la popò all'angolo della banchina. Se pulita se ne è pisata e se ne è andata e non paria la vista, non sappiamo se la vendi. Alla cazzo un chilo di roba e chi mi è avviata. E ti sei avviato, grazie. Vieni al centro storico il venerdì e il sabato e vedi cosa c'è, vieni. Comunque Marchisio, mi stai spaccando l'apparecchio oggi, sei troppo forte. Ciao anche a Gio Maria, anche se l'ascolto tutto messo male oggi che a Gio Maria l'ascolto, Ok, ciao Tore, ciao anche Graziano, Bacchisio, avanti Bacchisio, fai girare. Ok, ciao Marino, buonasera, mi ascolti bene? Ti stai spaccando l'apparecchio, sei forte, fortissimo. Caspita, questa è un'altra nuova invenzione fatta in casa del gigante. Sì, fortissimo. Oggi no, c'è una mutazione bella chiara, anzi, bella anche troppo forte come mutazione. Bellissima. Ma hai fatto quella voce che mi stavi dicendo? Sì, è quella che ti stavo dicendo a mezzogiorno. Eh sì, caspita, arrivi forte forte. Una bella mutazione, bella pulita. Ah, sono contento. Vediamo se mi ascolta Gio Maria. Gio Maria, avanti, buonasera. Ehi, buonasera, signor Bacchiglio. Ho dovuto spostarmi, signor Bacchiglio, perché non lo sentivo, Ero dietro qua con il gommino, non lo riuscivo a sentire. Allora mi sono spostato. Ma per prendere c'è la camera, così che non posso rimanere, Bacchiglio. Così che continuate voi, magari eventualmente dopo rientrerò. Comunque a fare l'osservazione a cosa, a Graziano, che se per me questi costi non devo mai dare. Carta, non so chi io. Fare l'osservazione, ma chi? Però detto che non devi mai dare questi costi, Edo, che affitto hai? Non devi guardare che gli fa male. Poi in Casiana sta un grillo e poi va a Rusi. Non fa vedi, meno bene, va, non fa vedi. Beh, comunque buonasera anche a Marino. Ben entrato. Avanti Marino. Adesso ti ascolto benissimo, Gio Maria. Poc'anzi negativo, vedevo solo il segnale, ma come rimodulazione zero, zero, zero. Adesso sei forte, va bene. Ok, grazie, non rispondi, cos'è? Va bene, la verità è male, quasi. Ad aprire hanno suonato. E sarà chissà che la baide, che tu la baide, sarà chissà. Ciao. Vai avanti, non mi dici. Già sono qua, visto che è Hussein, che te ne si può manco rimanere 5 minuti in pausa. Buonasera, signor Marino. Come va? Con due gambe, cerca di svegliarti, tu devi parlare, non rimanere in pausa, pausa, rimaniamo più tardi, non adesso. Vero Bacchiglio, avanti. Ok Marino. Allora, facciamo la modifica anche a quella. Sì, sì, caspita, guarda che, mi sta arrivando con un arrivatore come arriva Graziano, fortissimo come modulazione, bella pulita senza quel reme, pulitissima. Perché l'ho messa in varichina da mezzogiorno adesso, capito? Era sotto varichina, Marì. Da quando l'ho lasciato a te l'ho messa in varichina. E va bene, dunque l'ha lasciata un po' l'aria, dunque per l'odore, se no non si va un po' di... va bene, anzi. No, va bene, va benissimo. Avanti, Graziano. Ehi, ciao Marino. E allora, tutto ok, ok? Tutto ok, Cicciolini, tutto ok. La stai guardando, internet, non è guardarci le cose, che non c'è bisogno. Ti ho detto che se tu vieni al centro storico il venerdì e il sabato, ne vedi peggio. Non come lo vedi così, lo vedi proprio faccia a faccia. E te lo fanno di faccia, proprio davanti a te te lo fanno, Avanti, grazie. Che ci sono io! Bello, Marino, non ti preoccupare! Ma te ne immagini! Sono fuori io! Ti posi la macchina a gettare un drago! Ti pone a ripiglio e mi rivola la mazza! Ah, pucci che schifo! Vuol dire, grazie, ha avuto un'emergenza, succede, dai! Non è niente, grazie, avanti da chi? Sempre a lamentarsi questo Graziano, che non è che lamenta in sé. Gio Maria, digli qualcosa a te che sei più grande di tutti. Io si deve fare per sempre, canto e giuro e frequenza a mettere chi si cosini. Porcaccione che non sei altro, casa. Ah, te lo dico a Rosi, Lo dico a Rosi, che adesso ti faccio la spia e ti faccio un telefonino. Sono qua io, Gio Maria, non ti preoccupare. Dica già la fissu, mi. Cantoni. Ande muve, ande muve. Andai prego, a che ande muve ti fa un cazzo. A su chi? Cosa è che hai detto ancora? L'economia. Economia, mio sto. Ma è porcaccione, Rubo, buonasera comunque. Ma è porcaccione, giovanito, viga. Cioè, fu un fallo e pire le lana ru. Perché mi la posso capire non li potevo più noi, Dopo la vedo pure accucciare un ciubicino. Avanti tu. Già, vi racconto quello, la fracchina, Giomani, non ti preoccupa. Ti rimani, riprendi il tuo scusa, Rui. Salutoni a tutti, tanto va a cominciare, Giomani, come ti sta guiunta. Mi ha già strappato la guffia alla capa, un giappo. Rui, se ti viene troppo, si è allagato il troppo. Che tu mi sei, Allora, come te la mancia nell'uso? Boccalo, se no fasi peggio. Ma ti rimanci. Oh, ti saluta Lorenza, E ciao Lorenza, un bacio. Ti prego, tu borrugli quanto vuoi, tanto mi ne piglio un altro più giovane, la faccia suia. Fai bene, fai bene. Oh, riprendito. Buonasera. Io l'avevo attrezzato una china, l'avevo attrezzata, Graziano. Vittura, Grazia, cosa succede? Anche tutti i balabazzi, ti immaginerei. Lasciate stare, Graziano. Buonasera, Rosi. Tutti con Graziano, lasciatelo stare, Graziano, che si fa gli occhi ogni tanto. Dai, avanti, va chi? Ehi, tutti con Graziano, veramente, sera, che a voi. Buonasera, Rosi, ben ascoltata. Tutti con Graziano, paparaccio, che non voglio incastigare, non voglio far diventare più minore di Sugar. Hai diventato più minori, Bacchi! Tu faccio diventare più minori! Con la rete, non faccio nemmeno i denti! Fendere i denti, infatti sapete le cose, il computer, sapete questi concetti che piacciono ai giovani, capito? E tu pure giovane, vai, minoretto! Piccola rete, a 62 anni cosa vuoi abbaidare? Oh, la capisci! Bacchi, la rapisci marino! Poverino Graziano, quanti anni c'hai Graziano? 52, così hai detto? 32, 52, magari! Ah, 32, meno male, dai. Sei un giovanotto, dunque puoi anche guardare, non preoccuparti. Comunque Graziano, guarda, non sto scherzando. Di quelle cose al centro storico, tanto diciamo che il venerdì e il sabato, e qualche volta anche il giovedì, in quei locali dove la nazomania, in poche parole, peggio le vedi, peggio. Sono peggio degli animali, guarda, adesso non voglio criticare le donne, per carità, ma sulla metà sono tutte donne, la metà. Ok, avanti di Bacchisio. È così proprio. Vediamo un po' a Tore. Tore, dove sei nascosto? Sta dormendo, dottore, siamo a dormire, avanti to. Se devi gaime tutti e due, catana, avete poco di pressa tutti e due. Andiamo via, andiamo. Io sono seduto, mi sto guardando il televisore e a voi. Basta così. Ma quando è pigliato? Anche una camomilla ti è pigliato tu. Stavo una camomilla ti hai preso. La camomilla mi ha pigliato, bagosa, passa tranquillo. No! Ti sento solitario. Calmo, via da te. Avanti, Giovanni. Tore sempre calmo, tranquillo. Non c'ha problemi di niente. Chi c'ha problemi è Graziano, purtroppo. Chi non si ne può fare nulla che subisido? C'è sempre i disegni che si cose, gatta. Boh, grazie, io ti fatti sì una volta, almeno una volta, vai. Aspetta che sto occupando in cosa, già dentro subito, riprendete. Spegnimi il telefonino, ma chi? Cose controllenti, ha pigliato un numero dall'internet e vai telefonando alla Bionda, capito hai? Perché ci hai fatto un attimino di quel Rix? Ma di sicura sarà, davvero, e diventi maniaco, ma che si cosa diventi? Boh, io Graziano, un po' di serietà, vai. Cazzo, che sei gente minorenni noi siamo tutti minorenni, che si cosa si fa del male? Guarda che più piccolo sono io, il più piccolo, io ho 32 anni, il più piccolo sono io, dunque posso fare tutto come voglio, vero Graziano? Ah, Graziano si è sentato due minuti e sta resettando il cellulare, avanti Tore. Riprendi tu che mi sto contendo le fettine di cavallo qua. Cosa metti? Aglio, peperoncino e orzo, le lasci riposare, sono più buone, grazie. Aglio, olio, peperoncino, le lasci riposare e poi ce le mangiamo, avanti to. Ma da voi già lo sai cosa soffri, Edo? Mari, già lo sai cosa soffre con il peperoncino? Poi frigi... Non lo coso, lo friggitorio. E arrivederci, mi. Vabbè, ogni tanto fa bene, ogni tanto, sai, il peperoncino fa bene, tu. Il peperoncino è indicato, così dicono i dottori, più ne prendi e più ti fa bene, avanti, Bacchisio. Sì, il peperoncino fa bene, fa bene. E a proposito del peperoncino, ieri li ho piantati, no? Ho fatto il semenzaio ieri. E mi sono lavato in varichina, ho detto sì, vado a fare perché sapevo che pizzicava. E li stavo facendo, mi è venuto prurito un occhio, mi sono grattato con la mano già lavata, mi sono dovuto fermare perché ho cominciato a pigni per un demonio. Non lo posso immaginare, tanto non è maledetto il peperoncino. Maledetto, buona letto, da sì, avanti Gio Maria. Cado il Gio Piccello, l'avevo fatta bene, la greppa, gattilina, arrumacato. Allora, era tutto diverso, lo mettiamo arrumacato. E per il Bassori, no, a caricare la buccia di la misura, Dugna Manzano, no. E però sei su Gavricella che fa via un barroccino, un carrozzino via e un aino. E invece tu barragoni di... io che poi volo per parole da dritto all'aino di Gavricella. Attava. E te l'ho mancato, bilo per parole. E cominciai a buttare via da dritto. Catta. E però ha disciaccato l'aino dal barroccio. Come mi dai i cieli altri scorri, hai qui che stava in asso. La parte di là tutti esatto, la parte di là va a poterla ciappare. Gatta, ogni parole si è appoggiata lì, gatta, bobo. Oh, Marcinello, sei buttato in acqua, cos'è? Incendiato la vita, avanti, va chi? Ehi, Gravincella, raga. La Gravincella che arrava rossa dal Moccardo. E si pure un travaglio. Anche dopo a Montunava e servì in via Rossi. Ah, come si tu hai Bacchi? Sì, a Voglia. A Voglia l'ha già conosciuto. Eppure la figlia della Campagnosia ne avevamo mangiato. Si passava, caricava tanti rossi. Io caricato tanti rossi, allora io mi morte furro a questa zona per la... si la buttava lì, mi si vedeva che cosa che immaginavano rossi e quasi rosso cucosa, lo grasso, tutta lì si buttava, ma la borsa, cata, tutti i sassi l'ha fatto girare per poterlo fermare, cata, ma tu devi vederlo, cata, però mi giovincelli noi, mi, ma era, pensi, 14 anni, ma chi? Ma mi lamento oggi che oggi, gatto, su Cristo, pagare il traffico non finiva, commentava, solo barrocci, quindi e basta, capito, si chiedo, non era pericolo, capito? Sì, che invece la via lo Garessi, va via, via su Garessino attaccato all'aino, e si vimo che Umberto che ne cavava le corri, i gossi, tutto quanto ci sappava. In casa sua aveva un fiaco che non si poteva barani, era cosa che aveva, un fiaco di via che cercare il bustinosa. Ma per la greppa ieri ho accaduto, non più più. Gatta, ma d'una maniera mi combinava le gatta, d'una maniera, vabbè, avanti, si otto. E così è. Bisogna fare di quella maniera. Ma Graziano non ne sa di queste cose. Tore, fa una cosa, prendi un peperoncino, provalo stanotte se ti fa bene. No, a me fa male quello lì. assaggiare un due invece, a me ormai non ne posso pigliare io. Graziano, sei già abituato a fare, non le fai il mio effetto, capito, boh, oh Marie? Graziano, non le fai il mio effetto, ma poi sul turbo parlo di voi, non le fai niente. Già siete poco viziosi, boh, boh. Ma no, io il peperoncino lo mangio, me, tranquillamente, otto. Oppure faccio l'olio. Faccio l'olio come volevamo con mia moglie, fa la pasta, io me la aggiungo, la pasta, le fettine, dove voglio. Ah, capito, mi fa bene al sangue, fa bene a tutto. Vero, Graziano? Graziano sta imparando le fettine, avanti, Bacchisio. Ancora non è arrivato Graziano, sta mangiando il peperoncino. E allora quando passi ti do il peperoncino, Marì. E te lo mangi uno. Quest'anno mi hanno dato una qualità di peperoncino che ci viene dall'Austria. 30 centimetri è lungo, ma è di veleno, di cante piccanti. Questo è buono, ma è morroidi! Mia moglie mi ha fatto l'olio, lo sto ancora usando, va bene. Quello da 30 lo diamo a Tori, così vediamo se va bene ancora, vero Tò? Se ti frigge ancora? Ehi, che sa tu sei tu? Fa mangiare un peperoncino a me, già lo sai io, peperoncino. Quando lo assaggio mi si diventa, la faccia arruia mi si diventa. Non sei abituato, ormai sei vecchio, Tò, ormai sei vecchio. No, sta scherzi, peperoncino anch'io, io ho l'olio, me l'aggiungo, non sempre, no, ogni tanto già fa bene. Prima, perché c'è mia suocera fa la pasta molto piccante, cioè mia figlia piccolina, ma poco sembrava, non sentiva nulla. Ormai abbiamo i palati tutti bruciati, non ci fa effetto niente, capito? Tanto che fa bene ogni tanto il peperoncino, fa bene. Fa bene alla salute, fa bene al sangue, fa bene a tutto, vero Giovanni? Eia! Fa bene quando è regolare, ya, fa bene, dai. Ma chi ha certe patologie non è che faccia tanto bene, anzi, lo peggiora al 100%. Per cui Graziano, non li può mangiare, tanto li mangiano a testi, compresa. Pagisci che non fa il mio festa, va, è abituato e per cui ne può mangiare quanto vuole, vero Graziano? E allora mi mangio un burro, una bella fettina di ma giusto, di fegato, di surruio, bello, freco. Adesso era un po' che la graviglia, cioè la graviglia no, e la teglia chissà di chissà, perché è venuto a un tanto, prima la fettina e poi mi mangio la fettina di fegato, volare due, con la spruzzatina di limone. Hai capito, Bacchi, al vicino, avanti Bacchi. Un attimo, Bacchi, mi assento. Graziano è vizioso, No, Graziano, poi non ha passato il peperone, che è meglio, si può non vedere poco di peperone. Pure per il capo da Trissali. Sì, ce la di un po' in mezzo alle vestite, va, pausa, mezz'oretta, prima di farli, là, tre quarti d'ora, là, che prendono il sapore. No, il peccato me lo mangio così, con il limone, una spruzzata al limone. Mi piace così, fatto sulla piastra di ghisa. E da voi, con un limone, buona reddu e... Ma cosa mi metti, grazie, solo limone, oppure lo condisci anche? No, mi metti i pomodori, mi ho quelli a grappolo, che ci maduri, barò. No, ci leggino, sa assomigliare, ma sono più manne. Buona reddu, con un pizzico di sale, un goccino di olio d'oliva. Oh yeah! Mi mangio un pacchetto di crackers. E su che andiamo, andate, va bene, avanti il bello bene, avanti. La mozzarella ciliegine c'ho anche, bello bene, Tu sei un po' vizioso, Grazia, sei un po' vizioso, non va bene, avanti Torricino. Lo sai come è fatto lui, già lo sai, se non è piccante non ne mangia. Ormai c'ha la bocca già così, va bene. Anch'io, moda roba, se non ci metto il peperoncino non sento il sapore, capito? Già, senza esagerare, comunque devo sentire il sapore, il peperoncino, la piccante, tutto qui, avanti, va chi? Il peperoncino ci vuole, in tutte le cose bisogna mettere il peperoncino, capito? Se no non è buona, non è funzionante. Tore non lo usa più il peperoncino ormai, non interessa più nulla, non le piace più il peperoncino. Tore c'ha la bocca bruciata ormai, non serve più nulla. Così è to. Non ne usi il peperoncino. Qualche volta sì, ma qualche volta no. Non sono disponibile per il peperoncino io. Anche se no la di che cosa mi esce la faccia arruglia. Se è allergico, se ti va di cose, vabbè, non a tutti fa bene. Non a tutti, magari prima ti piaceva, adesso magari se c'è qualche appena un po' di patologia, se come la prendi ti fa male. Ma noi giovani, a me Graziano, siamo più giovani, non ci fa nulla, vero Graziano? Graziano sta stagionando il fuoco, davanti da chi? Graziano sta accendendo il fuoco, mi scende a fare la ruccia, va, mi scende la radio. Adesso è ora di merendero, sta mettendo fuoco. Hanno la piastra a gas, la cosa di chi si sta scaldando, non che è a gas. Sta scaldando la piastra, le preparendi, tra poco sentiamo l'odore qua. Era il telefono che ha squillato, un centralino, la faccia in un lampo. Ma pazzino il tuo telefono, graziale. Era quella bionda di internet che stava chiamando. Chi se l'ha già fatta a voi, la siciliana? A Gio Maria l'avevo mandato pure la fotografia. Siciliana, è maledetta siciliana, state attenti. Pure a Luca l'avevo mandata. Di questa siciliana. Pure a Veniaino che la città non vive lì. Sposato, due figli, tramite internet, questa bella ragazza siciliana. Due figli, si è caricato e si è buon separato la moglie. Siciliana, tutti i soldi le sta mangiando la banca. Avanti, Tore. Già lo sai com'è, Graziano. Purtroppo è così. Andate là. Che mangia un peperoncino, è fortunato. Ah va Pinaccio, ma com'è in Thailandia, chissà? Già voi Filippo, lui, della città, già te lo dico io quando devi venire. Aspetta ancora. Aspetta, speri. Falla venire, Garcia, falla venire. E allora, chissà, vengo pure io, ma mi telefono già mi manda blu, le videochiamate. E io chi sei macca, non lo so, te gli ho detto che sono sposato, è tutto. Vengo lo stesso, tennate, passa via. Chi sa niente, non gli ha fatto nulla, se sei sposato, c'è quello, non gli ha fatto nulla. Questo c'è con i soldi, no amore, solo i soldi, grazie. No, non gli ha fatto nulla, no, avanti da chi? Vabbè, chi sa di becca la pensione di grazia. E allora? Oh, bella e bella, però chi sei capace mi magna, chi sono cannibali? Maria. Siete sottomodulati, ma chi so è Graziano? Sono cannibali, Graziano, così è. Oh, che la pensione, io ti risuccia il dutto, ti risuccia. Cos'è che sta dicendo, ma chi? Io. No, stavo girando, stasera ho trovato questo patroffato, non l'avevo visto ancora. E non so chi sia che me l'abbia mandato. Non sono riuscito a individuare la persona. Cosa ti avevo mandato? No, perché non lo sento bene. Quattro foto. Sono così. Ma gente di... gente di noi, no? E stavo girando, ma e ci ho trovato queste qua. E magari qualcuno ti conosce sicuramente. Qualcuno ti conosce e ti ha mandato le foto. Ma donna è? Ehi, donna. Occhio Bacchisio, che questa qua te vuoi succhiare tutto, eh? Occhio, stai attento, avanti Tore, la camomilla ha fatto effetto, avanti Giovanni. Grazie che camomilla, bubù. Vabbè, che sono la vita. Grazie. Grazie, non sto guardando la cosa, le foto nel telefonino. Ehi, chi si tiene piglia nella campagna, mi bacchi. Oh, yeah, occhio. Non ci sia, non ci ascoltate, due minuti, mettiamo, sono le foto, boh. Cosa? Sto bacchino. Se vengono, basta mettere con la testa appoggiata all'albero. Ehi, è da mettere il culo in un bozzo. E poi io avrò un po' sotto su 120 metri, se quello di 30 non unisci. E allora? Se noi gli apri uno chalet, apri e ritieni gli una gamba, la lì da catena. E fai un parato, vai di là. E mezzo allo giro sole, Ziriboni. Ziriboni, do. In mezzo al girasole a fare da buppazzi. Quando lei la potrà fica di poli, ma mangiarsi la fica di Corracci. Ragazzi, io vi saluto, là, sono le 8:15. Ce la sentiamo domani. Ciao Gio Maria, sei in ascolto, buona cena, buon tutto, ciao Ottore, anche a te lo stesso. Marina e Bacchisio, a domani se coincide, ciao belli belli, vai tu! Ok, ciao, grazie, ben sentito, buonanotte, buonasera, saluto a Rosi, saluto a tutti quanti, bene, avanti Bacchi. Io salutiamo a Graziano, ciao Graziano, buona serata, buona cena e saluta la signora, a domani, ciao ciao! Sì, ciao Graziano! Anche se tu mi hai lanciato, Guido si è lanciato prima. Ci sentiamo, riprendi. Maria. Ciao ciao! Maria per saluti, avanti Gio Maria. Gio Maria si è spostato, è così e tu dici. Sempre a noi tocca, c'è nulla da fare. Vabbè, tutto a posto, dottore, cari, stanno bene, sì. Penso di sì. Penso di che già so che anime. Meglio di noi, dai. Sì, vabbè, dai, tutto andava. Se riusciamo ne avvicineremo. Sì, vabbè, piano piano, sto, piano piano, un passo alla volta. Avanti, gigante. La bambina non c'è. Ma il dottore ha sbagliato a portare i cani lì soli così. Gli devo comprare un telefonino o qualcosa del genere. Almeno siamo sentiti e visti. Sì, già li vediamo. Piano piano. E devi gaime tutti e due. Cosa la potevi fare, tu? Ti compravi la telecamera collegata con internet. E te guardavi col cellulare, scusa. Ah sì, quello sì. Tu li puoi vedere pure tra. Ehi, voglia. Io la faccio io. Adesso quando eravamo a casa io per intervento. Io ho il sistema fuori, no? Attaccavo il cellulare e guardavo anche il cane di mia figlia, tranquillamente. Anche in treno, l'ho attaccato e vedevo tutta la situazione, hai capito? Avanti, da chi? Ok, no, il coso a internet ce l'ha mio cugino, lì a Cuneo. Quando viene qua, da qui guarda tutto il giro della casa, i cani e roba varia, vede tutto, come sia davanti. E come quello ci abbiamo noi qua a casa, questo l'ha attaccato mia figlia, no? E ci abbiamo ancora, c'ho anche io un cellulare. Io ancora da casa, per esempio, quando l'ho ricoverato, io dalla stanza mi guardavo a casa. Fa il giro da casa, guardavo il cane, tutto quello che c'era, figurati. Oppure tornando sul treno, tornando lo stesso, benissimo, proprio chiaro chiaro. Collegato a internet va bene. Avanti, signor Store. Quel coso lì costa un pochino, costa. Ah, già si può mettere più avanti. No, guarda, non costa molto, dottore. Deve avere le cose in internet, deve avere, perché il telecamera mia figlia ha pagato poco. Sono 4-5 telecamere, ha pagato pochissimo con il coso, dai, a internet. Guarda, se non mi sbaglio non ha superato neanche i 300 euro non ha superato. E abbiamo piazzato, hai capito? È una fesseria, anche piazzato è una fesseria, avanti. Ehi, andà bene. So che non so come manco se chi vi internet vi bassa. Quello lì è. Deve avere la cosa della DSL, hai capito? Se non c'è internet, se non c'è la DSL, dunque non va bene. Non va bene, tutto qui avanti va chi? Dai, Tony, se si può permettere di fare quelle altro, guarì. Se tutti i milioni che ha, non sa dove metterli, dunque li può anche spendere. Può spendere perché almeno c'ha, è sotto controllo il cane, capito? Mette una telecamera con le altre di là e ciccia, se le guarda il cane. Anzi, non ti dico balle, le puoi, dal cellulare le puoi fare foto dal cellulare, puoi anche parlare dal cellulare, hai capito? Perché io se voglio parlo e tu scendi là sotto la videocamera e senti. Infatti, parli, ero cane se gaglia muto. Quando vieni te lo faccio vedere, lo faccio. Capito? Fare foto, fare riprese, fai tutto quanto, tutto tramite il cellulare, capito? Avanti, Bacchisio. Così è. Così tu devi fare così, devi mettere tutta l'attrezzatura, da casa vedi tutto l'andamento com'è, se ne hanno bisogno ci vai, se non hanno bisogno non ci vai, risparmi gas, tempo e denaro. Infatti, a far così bisogna prestarne una a un chilometro, a un coso, a 100 metri da sedia e vedi tutto. Se c'è internet va bene, tu. Non ti so, contatta dove sono loro, si è a posto. E tu la tua te le guardi. Se manco un paro di 100 metri in ascio, e ne punto una in ascio, ne mola, manco vedi tutto. Io dico la casa tua, ti puoi andare anche dove ti piace, vedi, puoi andare. Da dove vuoi te puoi controllare, capito? A me c'è tutto sotto controllo. Avanti, va chi? Ecco di proprio. Bene, bene, dai, ma chi se ne passa in QRT, perché è ora di fare tutto il trabacco delle medicine. E poi ce deve mangiare. Bene, Marino, grazie della compagnia, ci sentiamo domani o ce la vediamo un po' come vanno le cose. Se mi porti su quell'attrezzo lì, rifacciamo il lavoro che ho fatto a questa. E così anche per Tore. Ciao Tore, buona serata anche per te, saluto al Corriere Familiare. Vi saluto cordialmente tutti e due, augurandovi ancora buon questo e buona cena quando la farete. Ma chi se da questo istante passa in QRT, ascolta fino a lì e poi chiude. Bye bye! Ok, Bacchisio, buona serata, buona cena, saluto in casa, ci sentiamo domani, se coincide. Io adesso domani esco tardi, appena esco, due minuti ne smonto con la linea, smonto. Così mi carico in macchina, poi ci vediamo giovedì. Giovedì ci vediamo, così te la do. E fai quel lavoretto che fai, così venerdì controllo, vado di là e vedo se è arrivato con la commissione. Avanti, Tore, cambio. Sì, andare. Ci sentiamo, Bacchi, a domani se tutto coincide, ok, buonanotte. Ehi, ciao Tore, ciao Marino, e giovedì non lo so cosa rientro, morì, devo andare a QTHH, dunque non so a che ora mi mandano via, capito, ma in serata dovrei essere a casa, capito. A risentirci, ciao ciao. Ok, ma chi non preoccuparti, se è giovedì, sa venerdì, sa sabato, non c'è problema quello lì, no, ma chi fai quello lì che è più urgente, perché questa qua è una seconda cosa, non preoccuparti, ok, ci sentiamo, avanti, Torici, che mi dici, bello? E cosa ti devo dire? Cosa ti devo dire? Dimmelo tu cosa ti devo dire. Novità, niente? Hai fatto qualcosa, no? Eh? Hai fatto qualcosa, se ci stai pensando per quella cosa. Sì, mi sto interessando, mi ha già mandato le cose, mi ha mandato per andare a Catasto, ci vado domani mattina, ci devo andare, mi ha mandato i numeri, e ci vado e tolgo fuori tutto domani mattina, poi devo salire, tornare in banca, devo salire e vedere se me lo concedono. No, ti mando io, così a chiedere un preventivo, non costa nulla, lì. Dove sono andato io e altra gente. C'è su via Umberto, c'è la che banca, se vuoi andiamo assieme oppure ti dico il nome, cerchi quella persona così ti fa un preventivo senza impegno, a chiedere non costa nulla, tu le spieghi tutta la situazione ciccia, poi lui ti fa il preventivo. Avanti. No, io con la banca che ho io me l'ha già fatto il preventivo. Devono solo che ci sia un'altra persona che ti faccia insieme il coso, con due con due cose, capito, con due paghe, se no, no bisogna che ci sia un aiuto, se no non possono fartelo. Ma un avallo, ma pensavo che fate avallo, così? No, non un avallo, bisogna che ci, io e mia figlia, è compreso, che ci siano due persone. Allora guardano cosa esce fuori. Ah, per le, ho capito. Va. Io non lo so perché io, dove sono io non c'è bisogno, sono solo, io lo so, busta a fare cos'è. E mi hanno fatto tutto loro, mi hanno fatto. E poi già ne parliamo in, di persona, dai, con calma. Adesso, adesso fai quello che devi fare, tranquillo, chi hai preso e così via. Poi, poi ne parliamo, dai. Sì, siccome è per l'età, hai capito, è per l'età che loro stanno facendo. Ho capito, tu non, 70 non sei arrivato, no? A 70 è arrivato, sì, no? Là? Non si, a 70 sei arrivato, no? No, ne ho 60, 65, però loro me l'hanno fatto arrivando a 76 anni, di più no. Come materia prima la metà, come così? Siamo lì. Loro me l'hanno fatto in base all'età e sin arrivare a 76 anni. Più, più avanti non si può andare. E vabbè, allora ci vuole tua figlia, in effetti. In effetti ci vuole tua figlia, la busta a paio, certamente. Dopo un altro appoggio, voglio una specie di avallo, vai, come si chiama, dai. Come se un'altra figlia. E vabbè, adesso vai, prova con calma. E fai quello che fai, dopo, dopo ne parliamo in faccia di coso, di persona e ti mando su e c'è un'altra persona, dico io. E ti devi fare il preventivo, senza impegno sempre. Ma già ce l'ho un altro posto anche dove, dove ho già chiesto, se non fa lì, fa là. Là te lo danno per forza, te lo danno. Ok. E allora scusa, vabbè, tu stai provando la tua banca prima così. Sì, dai, ci sentiamo, mi stanno chiamando, Marino, alle prossime, a domani se tutto coincide, ok. Ciao Marino. Ok, ciao, beh sentito, buona cena, sono in casa, dai, sentiamo domani se coincide, ok. E anche a Giovanni, buona cena, poi chiudo. Ok, sono tornato tutte le soltone, quelle che si prende, ciao. Ciao Marino. Yeah. Ma dove mi ti siedi? Cosa stai facendo? L'amore stiamo facendo. Cosa stai facendo? L'amore. Ma c'è ora? Pucci, pucci. Ebbè Luca. Chi è? Yeah. Aleno Franco, senti qua, vita mia, capito? Vedià. Già ti sento. Senti qua, vita mia, capito, capito? Ebbè Zofra. Qua. Fra, te l'ho detto, prima schiacci la portante, aspetti qualche secondo e parli, se no non si capisce. Ho capito. E adesso si capisce. E adesso si, chi è l'altro basso? Chi è l'altro, Fra, boh? Non ti ho capito, no, Luca. Ho detto, chi è l'altro basso? No. Non lo so. Senti qua la vita mia, cambio cambio. Ah, ehi, non mi tocci. Vabbè Zofra, che si dice Zofra, cambio cambio cambio cambio. Okay. Tutto morto è qua, tutto morto. Davvero? E avvero, i? O a cai? Avvero. E lu? Senti qua la vita mia, cambio cambio. Ciao Lucarie, ce la riascolta, dai, vado a cenare, capa. Sì, ciao Zofra, alla prossima, ciao, grazie. Pussi!